nascoste dei nostri tocchi leggeri. Lasciami cadere ora. Sparisci. Concedimi la fragilità del gioco che potresti nutrire. Toccante, troppo estranei l'un l'altro per non intenderci.